Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Mosca, con il professor Victor Gajduk, che ormai tutti i nostri ascoltatori conoscono e che riceve sempre tantissimi consensi. Anzi, se qualche volta non lo ascoltiamo o non lo troviamo per qualche mese, veniamo anche sgridati. Arrivano delle mail che ci chiedono proprio che fine ha fatto il professor Gajduk. E ricordo, il professor Gajduk, professore all'Università di Mosca, accademico delle scienze già dell'URSS e ora della Russia, è anche un patito di musica, perché la sua materia di insegnamento è altra, è uno storico, un esperto di archivi, un formidabile cacciatore di notizie negli archivi russi, e solo lui li sa girare bene, ma è anche un patito di musica, un conoscitore anche dei grandi interpreti russi. Buonasera, professor Gajduk. Buonasera carissimi amici, buonasera Armando e tutti quanti mi vogliono ascoltare, anzi ci vogliono riascoltare. Ecco, ma ho dato bene il suo profilo, perché ogni volta lo devo ridare, ogni volta ho paura di sbagliare, insomma. Più o meno, ma all'inizio della mia vita, da bambino, da ragazzino, ho cantato e quindi sono anche un cantante famoso, ma degli anni 50. Vabbè, questo ne parleremo poi. Però lei, professor Gajduk, è andato negli archivi di Radio Mosca e ci ha spedito dei file. Non le dico che sono in prima edizione italiana, questo sembra superfluo, ma ci ha mandato, tra le altre cose, La Steppa, il canto del coro dell'Armata di Liberazione Cinese. Di che cosa si tratta? Di chi è la musica, professore? La musica è del nipote di Chekhov, che la melodia, la traccia della melodia, che poi ho ritrovato negli archivi di Tolstoi a Jasna e Poliana, ma sono tra le carte di Chekhov. L'autore è il nostro grande scrittore Chekhov, o il suo nonno o il suo papà, ma comunque era la canzone che Chekhov ha cantato sempre con grande e immenso piacere. Ecco, La Steppa in russo lo pronunci lei, perché se lo pronuncio io sbaglio gli accenti. No, c'è poco da sbagliare, perché pole, e poi c'è l'accarezzevole suffisso per dire caro, ma è un suffisso in russo, quindi polushko pole. Secondo il grande direttore d'orchestra e compositore Stokowski, Leopold Stokowski, è la più grande, è la super canzone del popolo russo. Bene, allora... Ma la cantano i cinesi, che erano con tournée di solidarietà e di amicizia all'estremo oriente della Russia. In che anno avveniva tutto questo, professore? Grosso modo? Tournée è di pochi mesi fa, ma è già nella fondazione Radio Mosca, perché è sempre sollecitato mettere a paragone il clono cinese del famoso coro dell'Armata Rossa, russa, poi sovietica, e quella della Liberazione Nazionale cinese. I cinesi sono bravi a clonare. Questo musicista Knipper ci raccontava, il professor Gajduk, proprio in finale di momento, che avrebbe dovuto ricevere Hitler a Mosca nel caso, diciamo, l'Armata Rossa non avesse resistito, e la sua casa venne riempita di bombe proprio dalla polizia di Stalin, così sarebbe saltato lui e tutto, diciamo così, il gotha nazista. Tra l'altro, la Knipper era un'attrice che venne mandata, e questo ci ha detto il professor Gajduk, in missione speciale a Berlino, diciamo così, a fare l'attrice, ma come spia di Stalin. È un po' questo il quadro che ci ha detto il professor Gajduk, no? Ah, il quadro rocambolesco è veramente degno di un film, perché la sorella a Berlino, come attrice del teatro di Stanislavski, diventa la stella della cinematografia del Reich, è molto amata dal vertice nazista e sempre accanto a Hitler. in attesa dell'ordine di farlo fuori. Che però non arriva. Non arriva mai, l'ordine non arriva mai, perché per evitare la pace separata con anglo-americani contro l'Unione Sovietica, Stalin a Hitler risparmia la vita. E invece il fratello, compositore, autore di bellissime sinfonie, canzoni, quella che abbiamo ascoltato poc'anzi, era assegnato da Stalin a consegnare le chiavi della città di Mosca a Hitler e per farlo esplodere con tutte le bombe nel suo appartamento e farsi immolare lui stesso. Acconsentì il compositore, ma non succede nulla perché Mosca non è stata consegnata con le sue chiavi al nemico. Ecco, anzi, diciamo che i tedeschi sono stati fermati a 18 chilometri dal Cremlino, dove oggi c'è il monumento nazionale. Sì, che vedevano con un cannocchiale, anzi ci hanno messo un super cannone per bombardare il Cremlino, ma non ha funzionato questo cannone per qualche errore tecnico o sabotaggio. E quindi il Cremlino rimane come era quello. Ecco, senta, prima. Lei ci ha inviato un altro coro dei ragazzi della Radio Mosca con un solista, Sergei Paramonov, con la musica di una signora. Ci può spiegare un po'? Sì, sì. Adesso una signora, ma è trovatella, ecco la sua storia sulle macerie di Stalingrado, adottata dal un reggimento dei carristi e poi ha avuto una buona educazione nel conservatorio di Mosca ed è una grandissima melodista del XX secolo qua in Russia. E quindi il suo nome? Ascoltiamo. Il suo nome? Il suo nome è Alessandra, ma nome e cognome sono del caporeggimento. Alessandra, quindi Pakhmutova? Sì, sì, ma nessuno sa né lei, non sono stati mai trovati, evidentemente morti tra le macerie di Stalingrado, i suoi veri genitori. Quindi il nome che porta adesso è il nome del reggimento. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento telefonico con Mosca, con il nostro amico professor Viktor Gajduk, ricordo professore all'Università di Mosca di storia, ma cantore già da piccolo nel coro appunto di Radio Mosca, e poi ricordo anche amico di una serie di interpreti, di grandi, diciamo così, protagonisti della musica russa. Lui stesso anche è stato, diciamo così, in qualche modo un musicista, poi ci potrà anche fare delle piccole confessioni. Certamente ha una conoscenza musicale che tutti abbiamo apprezzato in questi anni, proprio con i quali e nei quali abbiamo appunto dialogato con lui. E grazie anche al fatto che ogni tanto ci pesca dagli archivi di Radio Mosca o altri archivi che sa lui, alcune musiche ce le invia. E in particolare abbiamo ascoltato questa Pineta Sacra, una musica che poi è stata adottata dalla Chiesa Ortodossa, una musica cantata dai bambini che chiede l'unità, la fratellanza di tutti i popoli slavi, una canzone, un momento musicale del 1975, pensate, in pieno regime sovietico, e composto da questa Alexandra Pakhmutova, che è stata trovata appunto sulle macerie di Leningrado e che in qualche modo non aveva più neanche riferimento dei genitori, venne adottata da un reggimento e assunse il nome appunto del reggimento del comandante. E ora, tra le altre cose, Viktor Gajduk ci ha spedito una canzone dedicata alle torce elettriche durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i bombardamenti di Mosca. Professore, ma questa musica di Shostakovich ha dedicato una musica alle torce elettriche? alle torce elettriche, perché prima nasce la poesia del grande poeta di quei tempi, ma anche oggi è un poeta molto apprezzato, Mikhail Svetlov, che è veramente un poeta bravissimo, e lui inneggia, anziché ai capi del Cremlino, inneggia alla torcia elettrica che ha permesso ai moscoviti di muoversi durante lo schieramento, e che ha fatto questa torcia elettrica qualche scherzo che, spegnendosi, rapiva nell'oscurità della notte il bacio ad una bella ragazza, perché è la storia d'amore nata durante la guerra. Ecco, la compone Shostakovich, il quale ha un grande ruolo in quel momento, nel momento della guerra a Mosca, no? Sì, sì, perché è famosa la sua sinfonia numero 7, detta di Leningrado, ma anche il numero 8, detta di Stalingrado. E quindi è una bellezza della musica sinfonica, che è anche una accusa alla guerra e ai suoi disagi, ma trova tempo per scrivere una canzone rassicurante, di cui quella che ascolteremo, dedicata alla torcia elettrica, si è spenta ed è nato un grande amore. Però bisogna tenere presente che i bombardamenti di Mosca furono anche pesanti, sebbene... Ma molto pesanti, nonostante la contraerea che non funzionava bene, perché non c'era la fabbrica di orologi per far esplodere l'esplosivo all'altezza dell'aereo, quindi si è costruita in fretta e in furia una bella fabbrica di orologi, solo per, non per portarli sul polso o in tasca, ma per far esplodere i proiettili. E poi c'era la contraerea molto efficace delle mongolfiere con fili elettrici, talvolta minati, per non lasciar passare i nazisti nel cielo di Mosca. Quindi ho raccontato tutta la storia tecnica della contraerea. Certo, certo, dovrebbe aggiungere anche poi i ricordi di Olga Lepeshinskaya, che fu la ballerina in quei momenti e teneva ovviamente, diciamo così, desto il morale danzando al Bolshoi nonostante quello che stava accadendo. Stalin poi, sì, le fece, sì, fare un monumento. La bomba nazista non ha colpito 500 kg, a dire poco, ma non ha colpito la sala, ha colpito solo l'ingresso, quello delle colonne. E quindi è stata restaurata quella colonna da una banca italiana, che era un dono alla città di Mosca. E quindi avete di nuovo, insomma, il Bolshoi. Da un punto di vista pratico, comunque, Shostakovich si inserisce in questo, diciamo così, in questo momento tragico, con una semplice canzone che abbiamo ascoltato. Detto questo, caro professor Gajduk, possiamo aggiungere un'altra cosa a Shostakovich? Poi lui, appunto, in quel periodo farà anche altro, no? Riuscirà anche a comporre altro, perché è intensissima la sua attività nel tempo di guerra. Sì, come abbiamo ricordato, ha composto ben due sinfonie durante gli anni di guerra, una dedicata a Leningrado, la successiva, l'ottava, a Stalingrado. Quindi lui ha compiuto il suo dovere, ma ha scritto anche nelle pause o per relax, perché la tensione era forte. Basta ascoltare queste sinfonie, canzoni per, cosiddetto, per il fronte di battaglia, o per quelli che lavoravano nelle retrovie. Quindi ha lasciato una eredità stupenda. Certo, riprendiamo un po' il discorso dall'inizio. Cosa sta accadendo in questi giorni a Mosca, professor Gajduk? In questa metà di maggio a Mosca c'è bel tempo, succede qualcosa di particolare? C'è del bel tempo, ci sono tanti fiori, tulipani in prevalenza, perché tutta la piazza adiacente al Cremlino è piena di tulipani, e nei parchi, nei giardini, sulle piazze, anche su per le strade ci sono tante improvvisazioni delle orchestre di fiato. Sì. È molto belle, e suonano valzer di Shostakovich, tra cui quello che abbiamo ascoltato di prima, che è un valzer molto ballato. Ecco, professore, lei ci ha inviato tra l'altro due file che contengono la canzonetta per ragazzi Udo Roghi Cibis, la pavoncella, no? La pavoncella, o su per la strada c'è una pavoncella preoccupata, perché vede un coro di ragazzi, un gruppo di ragazzi che entrano nel bosco e si preoccupa, quindi i ragazzi cantano: o non preoccuparti perché siamo a piantare altri alberi. Professor Gaiduc, sa che con lei il tempo vola e non si riesce veramente a fermare? Abbiamo finito anche questa puntata. Lo so, perché c'ho in dotazione qualche file che poi forse ascolteremo. Sarà la prima volta tra poco la tempo prossima. Che ci incontriamo. La prossima volta. Senta, è stato come sempre gentilissimo, generoso, ci ha raccontato storie meravigliose, non possiamo che salutarla e ovviamente le diamo appuntamento alla prossima volta. Quindi un cordiale saluto da Armando Torno, come sempre vi do appuntamento. Da Victor Gaido, che ha cantato per voi la pavoncella russa. Bene, appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. A risentirci.